Ok, io sono super carico e voglio iniziare, per chi non mi conosce, parlandovi insomma di qualcosa che chi mi conosce un po' meglio sa. A me piacciono le piante, non si direbbe perché a casa mia non ci sono piante, dove ci sono io non ci sono piante, però mi piacciono. In realtà c'è un problema, Dio mi ha dato tantissime qualità, tantissimi doni, ma non ho il cosiddetto pollice verde. Però io ho provato a volte a tirar su delle pianticelle, sembra che incomincino a prendere vita, però poi, non so, nel giro di 24 ore, tutto quanto finisce sempre male. Ma questo non mi fa demordere. Io ho detto, no, io mi devo informare, io devo capire. Ci saranno delle piante, magari, che io riesco, di cui riesco a prendermi cura, perché forse più resistenti, più autonome, in qualche modo, nel crescere, nel vivere. E così ogni tanto vado a leggere e ho scoperto che ci sono piante. E mi piace leggere, ho visto che ogni pianta, in botanica, la scienza che si occupa di tutte le piante, c'è sempre una piccola scheda che la definisce. Io voglio fare un giochetto con voi, vi faccio leggere una scheda botanica di una pianta e vediamo chi è che indovina di quale pianta, insomma, stiamo parlando. Leggiamola insieme questa scheda. Pianta arbustiva arrampicante caducifoglie, confuso dall'aspetto contorto, avvolto da corteccia bruno-giallastra, sfaldata longitudinalmente, con ramificazioni rade, sviluppate in lunghezza, chiamate pampini quando sono erbacee, tralci quando sono lignificate. Di cosa stiamo parlando? Bravissimi, abbiamo insomma, una testimonianza visiva della risposta. In botanica si chiama vitis, perché sapete, loro utilizzano i nomi latini, mi piace anche tutta questa cosa, impronunciabili a volte i nomi, in questo caso diciamo il latino e l'italiano sono molto vicini, qui questa è la vitis, per noi la vite. Qualcuno si potrebbe chiedere, ma io sono venuto in chiesa, è qua che sta succedendo? Vi dico subito che oggi ci prendiamo una bellissima, unica lezione di botanica. Questo è, insomma, il titolo del messaggio di questa mattina, della condivisione, di quello che Dio ha detto a me, Luigi, prenditi questa lezione di botanica. E io l'ho voluta condividere anche con voi, così non divento soltanto io bravo esperto di vitis. In realtà l'originalità di questo messaggio non è da riconoscere a me. Qualcuno molto prima di me ha esordito con queste parole. Giovanni 15,5 è Gesù che dice, io sono la vite. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché voi non potete fare nulla senza di me. È una dichiarazione che ad un certo punto, shbram, di quelle dichiarazioni che faceva Gesù, che lasciava tutti quanti con le spalle al muro, con da una parte chissà che cosa vuole dire, dall'altra boh, forse ho capito, questa cosa parla di me, non parla di me. Era con i discepoli Gesù quando ha detto questa frase. E ce la ripete oggi con la sua chiesa. Io sono la vite, voi siete i tralci. Gesù parte subito con questa fase di identificazione, così l'ho voluta chiamare. È importante a volte comprendere con chi stiamo parlando. Chi sono io, chi è l'altra persona. E Gesù qua mette subito in chiaro le cose. Dice, io sono la vite, voi, noi, siete i tralci. Questo definisce da subito che Gesù è il fondamento, è la fonte di vita, è il tramite attraverso il quale tutta la linfa nutriente arriva nei tralci e quindi i tralci hanno l'occasione di poter crescere, di poter sviluppare il proprio fogliame e quindi arrivare addirittura a portare frutto. Questa cosa mette te, me, e Gesù in un ordine molto molto specifico. Sapete perché? Io credo se vi dovessi fare questa domanda, la risposta ce l'avrete, come la prima domanda che vi ho fatto. Avete mai visto un ramo buttato per terra crescere e portare frutto? Voi l'avete visto? Io ho provato a farmi un giro in campagna. Se li ho visti i rametti buttati lì, erano morti. Se la risposta è così logica a questa domanda, come mai a volte noi non riusciamo a dare la stessa risposta logica a quando ci pensiamo tralci, ma nel desiderio di voler essere autonomi, sufficienti? Solo di Gesù si può dire che è autosufficiente e autoesistente. Nessun'altra cosa può essere sufficienti a se stessa. Eppure io a volte da tralcio, perché Gesù ha detto tu sei un tralcio, e io non posso definirmi nessun'altra cosa se non un tralcio, perché Gesù mi ha detto questo, ma non posso in questa identità pensare di poter avere una vita mia, di poter portare, di potermi sviluppare, di poter portare addirittura frutto. E Gesù mette sempre in questo identificare le cose un accento anche sul frutto. Se lui è la vite e io sono il tralcio e dal tralcio viene il frutto, dobbiamo anche renderci conto che il frutto, e ora capiremo cos'è questo frutto, non è una prerogativa esclusiva del tralcio. Non è che il tralcio da sé può dire io oggi voglio portare frutto. Il frutto dipende dalla vite. Se non c'è la vite, quindi il tronco, le radici per intenderci, quel frutto su quel tralcio non potrà mai esserci. Certo, il tralcio dà il suo contributo, il tralcio ha il suo da fare, ha il suo reggere e portare quel frutto, ma diciamocelo chiaramente, tutto ciò che noi possiamo definire frutto, frutto buono, perché capiremo anche che c'è un altro frutto non tanto buono, dipende dalla vite. E Gesù fa subito poi il passaggio successivo. Dopo aver definito le cose, dice, colui che dimora in me e nel quale io dimoro. Questa è una parola chiave, dimorare. Oggi vi faccio delle domandine semplicissime. Se io dovessi dire dimorare, vediamo qui ho questi due ragazzini super intelligenti, secondo me, in prima fila. Se io dovessi dire dimorare, quale immagine vi viene in mente? Casa, perfetto. Chi ha risposto casa? Donatella, bravissima. Casa. Sempre pensando a dimorare e pensando a casa, se io vi dovessi dire sempre dimorare, che casa immaginate? Una casa caotica, magari uno di quei lunedì dalle grandi pulizie, tende alzate finestre, pareli aperte, gente che corre, va e viene, non si capisce niente, o piuttosto un bel salotto, gente seduta su quel salotto, magari ci possiamo anche accendere un caminetto, ci sta in questo periodo, chiacchiere, risate, qualcosina di buono da sgranocchiare, familiarità, agio, il piacere di stare. È più questo dimorare, secondo voi? O è quella prima immagine di casa? Gesù definisce chiaramente quale deve essere la tipologia di relazione che dobbiamo avere con lui. Non è come, Gesù, io sono qui, guardami, mi vedi? Non dobbiamo attirare l'attenzione di Gesù, non dobbiamo essere presi dal nostro fare per poter pensare che Gesù possa risponderci o possa dare la risposta al, diciamo, al nostro bisogno, alle nostre necessità. Lui ci conosce, ci dice semplicemente, vuoi portare frutto? Ok, vieni a casa e vieni a dimorare con me, stai con me, vieni, vieni, vivi l'attitudine di riposo, di agio, di confidenza, di intimità che lui vuole avere con noi. Sapete, oggi parliamo tantissimo di interconnessione, è un termine che va in voga anche perché grazie a internet, la tecnologia, l'interconnessione è, immaginatela così, uno scambio di informazioni, di idee, di una comunicazione che va in tutte le direzioni, da te, da un altro, torna di nuovo a me e poi riparte non so per dove. Gesù, migliaia di anni fa, parla di interconnessione. Dice, colui che dimora in me e nel quale io, Gesù, dimoro in lui. E questo è il movimento. Io dimoro in Gesù, Gesù dimora in me. Io dimoro in Gesù, Gesù dimora in me. È uno scambio. Ecco perché il tralcio in realtà non è che è un pezzettino di legno lì inefficace e che non serve a nulla. Non serve a nulla quando non è connesso alla vite. Lo dice la parola di Dio, ma quando è connesso alla vite è uno scambio bidirezionale. Gesù viene in noi, noi in Gesù. Gesù ha piacere di dimorare nel tuo e nel mio cuore. Gesù ha piacere di essere, di stare con noi nella nostra vita, nel nostro quotidiano. Dimorare con Gesù è vivere in maniera permanente. Questo è dimorare. È proprio l'origine del termine, quello utilizzato nella lingua greca. È vivere, abitare in maniera permanente. E come può stare Gesù in maniera permanente in noi se noi non siamo connessi a Lui in maniera costante? Dimorare in Gesù e amare Gesù. dimorare Gesù è seguirlo nelle sue, nei comandamenti, anche nelle cose che lui ci indica attraverso la sua parola. Dimorare in Gesù è scegliere Gesù e non io, me stesso, le mie cose. Sapete, questo è il grande problema. Il tralcio vive costantemente, noi tralci, in natura non può essere, ma noi tralci viviamo costantemente la tentazione di distaccarci. E questo succede ogni volta che incomincio a dire io ho bisogno, io voglio, io cerco, io credo, io desidero, io devo. Lì, se voi vedete, non c'è più Gesù. Quando invece incominciamo a dire non la mia volontà, lo ha fatto Gesù per se stesso, perché non dovrei farlo io, non la mia volontà ma la tua volontà, Padre, la mia gioia è seguire te, la mia gioia è voler vivere te. Ecco, abbiamo anche cantato, noi viviamo e viviamo in Cristo. Dobbiamo arrivare alla consapevolezza piena, ma anche alla realtà molto molto pratica, che Gesù è la mia vita, che Gesù è la tua vita. E non c'è altra vita al di fuori di questa. Tutto il resto, mi dispiace dirlo, può suonare tosta come verità, ma sono pseudo forme di vita. In realtà è un piede nella tomba. Se io credo in Gesù, io so di aver trovato la vera vita. Ed è una vita che porta frutto. È una vita che si sviluppa in così tante forme nuove che mai la mia testa umana poteva pensare ed immaginare. Se noi descriviamo la vita umana, saremo delle persone bravissime a darne una descrizione, un'osservazione attenta, veritiera, perché sappiamo benissimo che cos'è la vita. E sapete che anche Gesù sa che cos'è la vita? Lui non si fa assolutamente né lasciare, come dire, meravigliato quando capisce che la vita qui su questa terra è fatta di sofferenza, è fatta di delusioni, è fatta di problemi. Non è che Gesù dice, no, ma non può essere, mica è così la vita, se... dove vivete voi? Su Marte? No, sulla Terra è un'altra storia. La vita è bellissima, è una favola, va tutto quanto sempre bene. No, Gesù sa benissimo che cos'è la vita. Ha camminato su questa Terra, ne avrà affrontate di situazioni e di problemi. Continua a stare con noi. Abbiamo cantato, non mi lascerai mai, significa che Gesù è con noi oggi qui, un contesto bello, tranquillo, piacevole, ma è anche quando domani tornerai magari in quel contesto lavorativo, familiare, tuo personale interiore, che non è una gran gioia, anzi potrebbe essere una gran battaglia. Ma Gesù c'è e dice, al di sopra di tutto questo, io, Gesù, proclamo una nuova vita. E quella nuova vita è una vita dimostrata, è una vita vissuta, è una vita che produce un frutto. Che cosa si intende per frutto? Il frutto è, definizione, dimostrazione esterna di una disposizione interna. Quello che vivo dentro io porto fuori. La psicologia è bravissima a dare questa definizione, la Bibbia molto tempo prima è stata in grado di definire questo. In base a quello che hai nel cuore, quello viene fuori. Questo è il frutto. E quando Gesù dice porterete frutto quando dimorate in me e io dimoro in voi, sta dicendo che è una conseguenza inevitabile che noi, nel momento in cui siamo uniti a Cristo, amiamo Cristo, decidiamo di vivere, di fare di Gesù la nostra vita, che il frutto venga. Noi a volte siamo così concentrati sul frutto che perdiamo l'inizio. Io devo essere una persona brava, io devo essere una persona gentile, io devo essere una persona che obbedisce a tutte le regole che ci sono nella Bibbia, nel codice stradale, nel codice civile italiano, eppure, non so, in quello giapponese, se mi dovessi trovare in Giappone, me lo studio pure. Io devo essere una persona corretta, responsabile e educata, io devo conoscere tutte le regole del bon ton, io devo. Ma alla fine, questo produrrà un frutto di vita in me? Non è assolutamente questo. Perché io posso conoscere tutta la norma, io posso conoscere tutta la legge, posso conoscere tutte le buone maniere, ma mai potrò avere la certezza che nella mia vita io porterò un frutto buono. Se invece sono radicato, unito ad una pianta, ed è una pianta buona, è una vite buona, è Gesù, Gesù è buono, non può portare un frutto cattivo. Nella tua vita, nella mia vita, arriva il frutto buono. Perché parlo di frutto buono? Perché la Bibbia stessa dice, attenzione, c'è un frutto che non è buono. Umanamente parlando, noi produciamo inevitabilmente dei frutti, e la Bibbia li mette come, ecco, valutando un po' la genuinità del frutto. C'è un frutto cattivo e un frutto buono. Il frutto cattivo la Bibbia lo presenta come il frutto della carne, che senza insomma inoltrarci è fondamentalmente la conseguenza di una vita egoistica, incentrata su se stessi, e quando noi ci incentriamo su noi stessi, ci distacchiamo da Dio e diamo spazio al diavolo, al male, al peccato. Questo è un frutto di discordia, è un frutto di amarezza, è un frutto di maledicenza, è un frutto di impurità, è un frutto di mettete tutte le cose brutte di questo mondo. E dall'altra parte Gesù dice, se dimori in me, in te arriva un frutto, ed è un frutto buono. La Bibbia lo definisce un frutto spirituale, fatto di amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Tutte queste cose non vi fanno pensare ad una bella vita? Non è tutto ciò di cui tu hai bisogno? Non è tutto ciò di cui tu hai bisogno per te stesso come persona e per poter stare con il resto del mondo? Pensa ad una persona che vive in maniera rabbiosa. E pensa ad una persona, tutto quanto in maniera rabbiosa. E poi pensa ad una persona che vive tutto quanto in maniera tranquilla, con mansuetudine, dice la Bibbia. Qui, pacato, mite, tranquillo. Chi dei due conduce la vita migliore? Questa persona qui, quella mite, vive una vita migliore da un punto di vista fisico. È dimostrato, scientificamente e da un punto di vista medico, dimostrato che ha una condizione di vita, si risolverà tante, non avrà ulcere, non avrà mal di stomaco, non avrà problemi intestinali, perché sembra che oramai qui abbiamo un gran cervello qui dentro che risente di tutte le emozioni e le sensazioni. Dicono anche che non ci siano, ci sono meno rughe, quindi sto cercando di essere il più mite possibile, così la mia faccia regge ancora. Gesù vuole il meglio per noi, e non è soltanto un bene lì, non lo so, dove sta? No, è anche pratico, anche fisico. Se io vivo il frutto dello Spirito, conseguenza, ricordiamocelo, dell'essere uniti a Cristo, io vivo una vita migliore a 360 gradi, nel corpo, nell'anima, quindi pensieri, sentimenti, e nello Spirito sono connesso al Re dei Re, al Signore dei Signori, colui che mi dice che per me c'è speranza e c'è vita ed è una vita eterna. Quel frutto è frutto solo ed esclusivamente di un intervento soprannaturale. Non è possibile raggiungerlo umanamente parlando. Non è questo che oggi Michele, Nico, e Angela stanno dimostrando con quello che andremo a vivere fra un po'. Il fatto di aver scelto Gesù e di essere uniti a Cristo li porta ad essere partecipi della morte che Gesù ha vissuto, e quindi del morire a se stessi, del morire al peccato e risorgere in novità di vita. Romani 6 lo specifica benissimo. Questo è quello che loro stanno testimoniando, e lo testimoniano oggi con un atto così visibile. È un po' mettere la firma, il timbro, l'ufficialità sulla vostra scelta, una scelta che già avete fatto. Ma da questo momento in poi, per loro, così come per tutti quanti noi, per te che forse per la prima volta senti questo, o per te che già sei in una fase di radicalità con Gesù, di unione a Cristo, dobbiamo renderci conto che dimorare in Cristo Gesù è un processo. Non succede tutto in un giorno, anzi dobbiamo sviluppare sempre di più quella forma di intimità e di familiarità. Non possiamo assolutamente fermarci. Il nostro obiettivo, la nostra priorità giorno per giorno deve essere: io devo dimorare in Cristo. Cristo. Io devo conoscere di più di Cristo. Io voglio vivere di più di Cristo in me. Io voglio più essere simile a Lui. E questo è il mio desiderare di dimorare. Perché poi dimorando io avrò conseguenze inevitabili, positive, buone, sulla mia personalità, sul mio carattere, sul mio essere, sul mio scegliere, sul mio agire. Questa è la vita buona ed è una vita che porta frutto qui su questa terra, è una vita che porta frutto per l'eternità, perché la promessa della loro scelta, così come della nostra scelta di seguire Gesù e di dimorare in Lui, è la vita eterna, è la vita per sempre con Lui. Quando Gesù ha detto ai discepoli, io sono la vite e voi siete i tralci, probabilmente nella loro testa gli si è acceso un ricordo non positivo. Dovevano ancora comprendere quello che Gesù stava per dire, è una mia supposizione, non lo so. Però non era la prima volta che si parlava di vigna ai giudei, qui al popolo di Dio, agli israeliti, a Israele. Dio aveva già parlato di vigna, dicendo voi, il mio popolo, siete come una vigna della quale io voglio prendermi cura. Ma è sembrato ad un certo punto che questa vigna non facesse frutto. E Dio, da padrone di questa vigna, ha detto mi dispiace, vi devo lasciare, vi devo abbandonare. A quella che è stata la vostra scelta di non seguirmi, di non essere unito a me, di non essere il mio popolo. Gesù viene e ripresenta un'immagine, ma la dà completamente in una visione nuova. Dio era intervenuto con un giudizio educativo, ma in realtà stava aprendo la via verso Gesù, dicendo la vigna ritorna. Ritorna ad essere il mio popolo, dice Dio, ma è una vigna completamente nuova, perché in questa vigna è stato piantato un vitigno completamente nuovo, prima non c'era, ed è Gesù. E Gesù, in quanto radicato nella volontà del Padre, è una pianta buona, che può portare soltanto frutto buono, dà il frutto atteso dal Padre a chiunque si radica a quella pianta. E io e te siamo chiamati ad essere radicati in Cristo Gesù. Qualunque sia stato il tuo passato, Dio ha messo da parte un passato per un popolo intero e poi quel popolo, Israele, si estende, la grazia arriva su tutti quanti gli uomini e noi entriamo a far parte di quel popolo. Qualunque sia stato il tuo passato, qualunque sia stata la condizione con la quale tu sei arrivato oggi, qui, stamattina, io posso dirti che per te c'è pronto un miracolo. C'è pronto per te la capacità di poter comprendere, e se non ce la fai, credimi, non è sforzo tuo, è opera dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, che in questo momento può convincerti, può convincere me, può convincere il pastore, può convincere la persona che è lì alla camera, Nico, può convincere le persone che sono a casa ora in streaming, Mottola e chiunque altro ci sta seguendo, che la nostra vita è in Cristo. Senza Cristo non c'è vita e senza quella vita non c'è frutto, non c'è quel frutto che tutti quanti noi speriamo per noi stessi. Andremo a vivere i battesimi e io sono felice di poter vedere questo frutto di grazia nella vostra vita, ma mentre vedremo anche un video che spiega effettivamente che cos'è il battesimo, io prego che quelle parole che Gesù ha detto possano risuonare ora nel tuo cuore come mai sono suonate prima e possano invitare tutti quanti noi a desiderare come non mai prioritario, come se ci mancasse l'aria, che noi vogliamo e dobbiamo dimorare in Cristo, nella piena speranza di poter ricevere vita in Lui. Amen.